quando Lucia per gioco mi bacia ovunque sta, il viso mi va a fuoco, non so più cosa fa. Lei dice, ma che sciocco, perché capire non può che razza di tempesta c'è dentro la mia testa. Quando Lucia mi sfiora e la felicità, e ciò è più buffo ancora di quanto son mi fa. Non vedo più nessuno, non vedo che lei e me. Se lei con tenerezza il viso mi accarezza, quando Lucia mi ignora non so più dove andare. Lei per giocare ancora la gran signora fa, poi non resiste a ridere da non finire più, e io mi do contegno fingendo un grande sdegno quando Lucia mi lascia. La vita se ne va e come un colpo d'ascia che il cuor spezzar mi sa. La sera con gli amici non so scherzare più, perciò affettuosamente mi trattan da demente. Forse loro però non sanno che questo sogno d'oro ha solo 18 anni, che una minella ancora, un'acqua risorgiva che mi rinnova ogni or. Sì, quando Lucia arriva con lei, vien qui l'amore.